sentito quel mio amico famoso di Arta Schiena. Praticamente in questo momento è indeciso se cambiare o no il datore di lavoro, perché un tipo gli ha offerto poco più del doppio di stipendio. Black. Poco più del doppio, ma dove? Per fare che cosa? Per fare il pizzaiolo. Black avanti il casino. Sì, positivo, va bene, sono tornato. Tornato, col tornato. Sei tornato o stai trasmettendo col tornato? Domenica. C'è la gente che c'è lì che sta praticamente mangiando la pizza. Oh, qualcuno si avvicina con un pezzettino di carta, un numero di telefono, e lo mette lì. Dice, guarda, se vuoi cambiare posto di lavoro, questo è il mio numero. Pensa un po', cioè puntuale, ogni weekend. Ma bisogna stare attenti, io ne conosco di gente che ha mollato il lavoro per avere uno stipendio migliore, poi è andata a fine in mare la situazione, perché questo era un tipo furtiviccio, questo era un commesso di ricambi, e se n'è andata da un posto che prendeva un po' di meno, però era un posto sicuro, affidabile, eccetera eccetera, gli hanno promesso mari e monti, è andato di lì, non quanto è durato, qualche mese, però alla fine è finito tutto male, fallito e si è trovato senza lavoro. Anche lui ha avuto una cosa simile, che gli è accaduta con un mio cliente. Si è spostato da un posto buono che aveva, questo gli aveva preparato nei monti, poi alla fine per una serie di questioni di ristorante è andato e non è andato, e per davanti lì non è successa questa cosa. E lui si è trovato un attimino lì cercando di capire come poteva proseguire la stagione, perché se ti accade la stagione iniziata è un problema. Ma ne mangi? Purtroppo. Cosa ti ha messo nel panino, Riccardo? Scusalo. Nel panino ho messo una bella spinazzina, un pezzo di berrettina e un bel pezzo di spaghettino. Ma hai capito, ragazzino? Un pezzo di spaghettino, ho capito. Nella spianata ho messo peretta di patata, mettiamola in chiaro, di patata originale, e anche un bel pezzo di speck. Ah, ho capito, specchettino, vero? Ho capito, spaghettino, invece di tenervi speck. Positivo. L'ho visto l'autoradio, Fabio. Carina, è vero, non pensavo neanche di averla. Chissà dove mi è rimasta, da qualche macchina rottamata, roba del genere. Ho preso, l'ho pulita, non usciva sul canale sinistro, perché sappiamo come quell'azienda fa le saldature, sappiamo come quell'azienda fa gli acuti. Era praticamente sul finale, c'era una saldatura fredda e basta. Trovata subito, così, pulita e tutto. Non è male, c'è un analizzatore di rispetto 13 bande, strano. Tutto quello non c'è un analizzatore di rispetto, dai, carino, interessante. Così, poi vabbè, tutto, no? Tutte quelle cose che... di qualche anno questa radio, tutte quelle case dispositive che hanno adesso l'autoradio, Bluetooth, la chiavetta, leggere l'uscita logicamente MP3, ha un bel sintonizzatore, perché è per girare con un pezzo di filo, è molto sensibile, molto molto più sensibile di un Aiwa, che avevo, no, di un Alpine che avevo qua sul banco l'altro giorno. Io ho sempre conservato quell'Aiwa che ti avevo detto, quello che si apriva, veramente un bel autoradio, cioè una bellissima ricezione, molto sensibile e poi molto esteticamente era bellissimo, mi piaceva un bel. Ma era a cassetta, sì. A cassetta, sì. Cavolo, guarda, io me la sarei messa in macchina. E che io ho questa cavolo di macchina che non ci può mettere niente, sennò ogni tanto mi cambierei l'autoradio, ci metterei qualcosa a cassette, anche perché dinanzi ne avrò tanto. E che suonano meglio dei CD soprattutto. Anche quella in macchina nostra, a cassette. Sì, non l'ho guardata quella macchina dentro, mi è venuta la curiosità, però stavamo parlando, poi alla fine non l'ho guardata. Ma hai visto che è imponente, che è quella Caprice europea, da dietro, l'hai vista com'è? Che imponente, che cosa? La Caprice, quella, la macchina di Riccardino, di Sergio. Ah, sì, sì, cavolo. Sono venuti a prendere una cancella, poi hanno fatto inversione, perciò avevano davanti o dietro. Vabbè, Sergio non si mette molti problemi, schiaccia l'acceleratore, come fa. Vabbè che c'ha anche macchina, che è bella solida. Secondo con quale Fiat lo fai certe cose, ti si alza l'ammortizzatore da supporto, per intenderci, ti entra l'ammortizzatore in macchina. Sì, no, ma l'hai visto quello fuori strada, quello sollevato. Ah, beh, fuori strada sollevato, di fuori strada. Ne hanno due di fuori strada, c'è quello celeste e quello, come si chiama, metallizzato bordeaux. Quello lì l'hai visto quanto è alto quel fuori strada? L'ho visto, due bestie. Sono due bestie. Vabbè, io sono abituato a vederli perché ad Olbia in un periodo era una moda, tutti con Ram 5000 benzina, capito? Ehi, ma tu fuori quando c'è Porto Cervo, quest'estate, vabbè, ogni anno fanno qualche fighetta, qualche festa di lì nel coso, nel posto. Quando l'anno scorso c'erano dei fuoristrada, quelli della Mercedes, AMG, AMG, tu li vedi quei fuoristrada, super modificati, tutti in serie particolari, di questi targati, di Tagaraba, Qatar, eccetera, eccetera. E c'erano di lì a chi ce l'aveva più grande, il fuoristrada, poi c'erano le Tesla, le Lamborghini, hanno portato una ventina di queste macchine, tutte fuori serie, le Rolls Royce, le Bentley, tutte cabrio, versioni particolari, versioni della Mini è capottabile con gli interni in Vimini, cioè macchine pulite, la Tesla, quella con le ali di gabbiano, questo due anni fa l'ho vista, no, l'anno scorso c'era altra roba, e c'erano tutte queste serie particolari, speciali di queste macchine qua, e c'era la festa di compleanno di questa, che cazzo è, non lo so, perché ha preso tutta la rada del porto di Porto Cervo e ha fatto una serata vintage, che hanno fatto, gli hanno dato tutta la banchina a disposizione, loro c'erano un mega yacht con tutto il paggetto, vestito in costume sardo, tutte le modelle di chissà dove cazzo le hanno prese, tutte stile vietnamita altissime, 1,90 m di modelle, tutte con gli occhi a mandorla, non erano cinesi, erano sicuramente qualche località di quelle della zona tipo Vietnam, ma delle donne spettacolari, tutto, poi hanno fatto una mostra di materiali vintage, dalle veste sino alle cose cinematografiche, e io ci sono capitato di per sbaglio, mi sono mezzo intrufolato, a un certo punto poi stavo parlando con i camerieri, ci sono stati una trentina di camerieri, tutti. La cosa che mi ha impressionato è che arrivavano tutti con queste macchine allucinanti nel piazzale, c'era chi c'era più fuori di serie, tutti Lamborghini cabrio, la Murcielago cabrio, la Maserati cabrio, la Ferrari cabrio, erano tutte macchine particolari, la Bentley e la Rolls Royce tutte cabrio con questi colori allucinanti, tutti sgargianti, multicolori, multieffetto, c'erano macchine, le cose più strane le ho viste lì, non avevo mai viste macchine dal vero, neanche sulle riviste, forse qualcuna sulla rivista, e tu devi vedere questa tipa quando è arrivata lì, io pensavo, ma che cazzo c'è oggi, qualche festa, qualche cosa, no, il compleanno di questo, parlo con questi che hanno organizzato tutto l'aperitivo, perché era tutto a base di champagne fuori, e poi entravano nello yacht, c'era il paggetto, sembravano quei film antichi quando c'era il re o il duca, arrivava il paggetto vestito in costume sardo, che ti arrivavano tutti con la lettera, con l'invito, lo davano a questa tipa, prendeva i nomi, guarda, una cosa che vedi nei film, ma forse nei film antichi li vedi queste cose, invece era la realtà. Non è andato per il compleanno. Io 100 euro ti posso investire, tu Robè? Guarda, era un coso, uno schiaffo alla povertà. A parte quello che c'era di tutti come erano vestiti, cose, erano tutti eccentrici, persone, lei è arrivata lei, questa tipa che penso ci avrà avuto un'ottantina d'anni, di meno forse dai 75 agli 80 anni, ma gli hanno fatto questa mega festa con tutte le insegne, I love, non so come si chiamava, tedeschi erano tutti qua. Poi c'era questo qua che ne è arrivato con la Tesla, sembrava il film, non so se ti ricordi il film Il Piccolo Rosso, l'hai mai visto? Ho detto nominale, però forse qualche immagine l'ho vista, ma non ce l'ho presente. Che c'era questo bambino tutto con l'abito, il cravattino, il coso, i capelli tutti pettinati, che quando arrivava toccava baciava la mano con l'inchino, cioè tipo che vedi nei film ai tempi di Gozo, di Cenerentola, cose così, stiamo parlando dell'Ottocento, e questa era la realtà quotidiana di due anni fa, sono rimasto a bocca aperta. Ah, poi non parliamo cosa c'era di sorveglianza impressionata. Sì, sì, ci sto, anche io compleanno così, mamma mia, io non avrei voglia di fare certe cose, capito? Proprio, non lo so, è una questione di, non solo di soldi, anche di mentalità, non l'ho mai fatto, ma pure mai, mai, mai. Scusate un attimo, è entrato di nuovo Emanuele, ciao Emanuele. E dov'è Emanuele? Emanuele Ginco, ha detto, sono tornato. No, senti, avanti Emanuele. Io non lo so. Ma tu stai pensando così, vabbè, sicuramente una banchina nel porto di Porto Cervo costerà qualche milione di euro, sicuramente. Sono in lettere. Ah, ecco, ricordi, non lo senti, Emanuele, no? Ricordi, ma tu lo senti. Va bene, aspetta che vado di nuovo a mangiare, mi sa. Hai portato il cucinino, te la cucini lì la roba, Riccardo? Devo entrare dentro, vado a mangiare e torno subito di nuovo, non bastava il panino, devo riandare. E poi ceni di nuovo, capisci che ingrassi troppo e poi non ci stai più dentro la sedia. Ehi, Ada, saluto a tutti, faccio di nuovo in fretta, non c'è problema, ci sentiamo dopo. Ehi, stavo preparando la carne alla roba di mia mamma. Sì, Emanuele, l'ho sentito io adesso, avanti Emanuele. Ehi, alla me. Dopo di devi fare la carrea da rubare mia ame, a posarsi, a Riccardino. Ehi, stava dicendo Fabio, la Sirio Antenne già la conosci sicuramente. Che cosa, la sigla? Sirio Antenne, cambiando discorso. Certo che la conosco, c'ho il 2001. Allora, noi tutti pensavamo che fosse morta la Sirio, così, confermo. No, negativo, morta no, ma sapevo che stava continuando a produrre antenne un po' diverse, invece poi ha ripreso a fare molte antenne per la 27. Mi sembra che avesse solo due modelli o un modello per la 27 un periodo che produceva semi-artigianalmente queste antenne. Per qualcuno ne parlava, nel senso che ormai la Sirio non esiste più. Allora, se vi informate, ha costruito un'antenna rivoluzionaria che fa da 50 MHz a 350 MHz, tutte e due le polarizzazioni verticali e orizzontali. Ha vinto l'appalto mondiale, stanno costruendo una rete di ricezione spaziale, come si chiama? Intergalattica, di segnali intergalattici, interspaziali. Sono, non so se sono roba di 250.000 antenne, ha vinto il brevetto, ha superato tutte le aziende del mondo, tra cui aziende inglesi, americane, eccetera, eccetera, ha brevettato questa antenna che non ha bisogno né di accordo né niente, che riceve segnali da 50 a 350 MHz, diciamo le onde, quel tipo di frequenze, perché poi sono dedicate e sono collegate una rete di cose, di postazioni di, come si chiama, di ascolto mondiali, sono più, non mi ricordo se sono 250.000 o 230.000 antenne, tutte quante della Sirio Antenne, ha vinto l'appalto e la gara, hanno verificato queste, non c'è nessuna antenna al mondo superiore a questa per fare quel tipo di ricezione. Se tu la vedi sembra un albero di Natale, è larga, diciamo che sia lunga 4 metri di altezza e 2 metri di base, perché ha una specie di forma di albero di Natale, si chiama scala questa antenna. E ho visto le prove, le caratteristiche, dice rivoluzionaria, hanno fatto delle prove addirittura con i droni per vedere le misurazioni, oltre che provarla come fanno tutti in camera anecoica, diciamo, diciamo con le misurazioni da, diciamo, vicine, ha provato con dei droni a vedere le prestazioni, dice è rivoluzionaria questa antenna, per cui i marchi italiani quando ci mettiamo facciamo delle belle cose. Cavolo, la Sirio ha fatto sempre delle belle cose, perché il rapporto qualità-prezzo a livello mondiale secondo me è uno dei migliori che produceva la Sirio, tranne qualche azienda americana che faceva delle cose particolari, però il rapporto qualità-prezzo, lasciando perdere la spedizione, erano sempre cose che insomma andavano oltre. E la Sirio ha sempre fatto di un pezzo di ferro un apparecchio perfetto. Sono contento che abbia vinto un appalto grosso, sono contento. Poi vabbè, a premiare sì, ha sempre lavorato bene, perché hanno sempre lavorato bene, ma poi anche italiani, speriamo che sia l'esempio per altri marchi, perché veramente ne ho la faccia in terra. Allora, sai che sto facendo questa osservazione? Io sono molto amata delle cose italiane, noi abbiamo i migliori ingegneri in qualunque campo. Sapevo che in campo antenne eravamo leader mondiali come tecnologie, come studi, ci invidiano a tutto il mondo. Infatti tutti i principali impianti satellitari, parliamo di cose, stazioni spaziali, eccetera, eccetera, sono antenne costruite, radiotelescopi, sono tutte progettazioni italiane, siamo all'avanguardia. Un esempio è anche in campo di cose, di la Magnum Electronic, perché noi siamo fissati a comprare americano, non so se tu lo conosci quello della Magnum, io ho avuto anche modo di conoscerlo, non di persona, però ci ho parlato telefonicamente e questo è un genio. Ti vedete, i suoi prodotti sono brevettati e sono costruiti su licenza in America, delle ditte americane, due ditte americane, per dirti di cosa stiamo parlando. Sono ineguagliabili, non esiste un prodotto al mondo con le prestazioni e la qualità costruttiva di questi prodotti che costruisce questo. Alberto, ingegnere Frignani della Magnum Electronics. Stiamo parlando dell'iniziativa a costruire degli anni 70, fine anni 60, e attualmente non c'è nessuno accordatore di antenna o cosa che riesce a superarlo come qualità. Riesce a fare delle operazioni che altre cose ci sono. Poi non parliamo di amplificatori, peggio che mai. Quindi accanto, vabbè dai, più adatto a me, del mio non c'è niente accordatori, ma non sono fatto tutto io come lo volevo io, però mi immagino che a livello commerciale insomma, costruire accordatori di un certo tipo che tengano certi parametri sia molto problematico, perché ho messo 3 giorni a fare il mio a mano, figurati quelli con quella precisione eccetera, fare quelle cose a livello industriale micidiale, deve essere veramente un lavorone, perché sono tipo orologi, capito? Allora, questo cellulare non c'ho le fotografie, ti faccio vedere, quando capita aperto col Magnum le metti 3000, che poi c'è anche il 4000 e il 5000 che hanno fatto, tu devi vedere come è costruito dentro, è una cosa spaventosa, le bobine, io non ho capito come cacchio le hanno fatte a costruire queste bobine, a volte dentro una piazza di vetronite, e le sfide sono a volte all'interno di questa cosa, ma è una precisione assoluta, le distanze, gli spazi eccetera eccetera, sono dei tubi di, non so se sia una lega di rame o di alluminio, sono perfettamente spaziati e avvolti dentro questa vetronite. Io sono rimasto, quando l'ho visto, che cacchio, i commutatori, le parti commutabili, tutto in ceramica, tutti con cuscinetti, le assi di trasmissione sono tutti su cuscinetti, ma un meccanismo proprio quando giri una cosa proprio perfetta, dura, e negli scatti che non c'ha giù, che non c'ha niente, è spettacolare. E poi c'è un'altra ditta, non mi ricordo l'ingegnere che l'ha progettato, un italiano che ha fatto quello amplificatore, mi pare che l'avevo detto, per le bande da 0 a 30 MHz, che non ha bisogno di accordatore, accorda immediatamente, istantaneamente a transistor di 2 kW, è di una tecnologia, non so quanti anni avanti a qualunque amplificatore del genere, non c'è nessun amplificatore al mondo di quelle prestazioni lì a transistor da 2 kW e che regoli automaticamente la potenza d'ingresso, tu gli puoi dare 500 watt d'ingresso o 10 watt, lui automaticamente si sceglie la potenza, se la regola in automatico, ti accorda automaticamente sulla frequenza di trasmissione, tutto digitale, questa roba qua, è una cosa da paura. Cioè praticamente ha una GC ingresso molto ampio, perché gli puoi dare da fino a 500 watt, insomma da pochi watt a 500, non so quanto mi stavi dicendo, e poi ha un accordatore automatico, non capito. Vabbè, cioè secondo come è fatto è veramente una figata, e ormai credo che usiamo tutti i comparatori, non c'è niente di analogico, io mi organizzerei con dei BJT che mi fanno gli scalini, poi un integratino che mi guarda i livelli, che è praticamente quell'integrato che si può utilizzare per creare una barra LED, da lì degli altri BJT per lavorare su 5 volt, dai 5 volt mi commuto in saturazione degli altri BJT che mi lavorano sui 12, poi ci metto il relè e all'istante dovrebbe accordare il livello. Però immagino che adesso in processore facciamo cose ben diverse, sarà da vedere, fra un paio d'anni magari ne capita in mano uno e ci smanetto per 10 giorni. Allora, tanto la rivista te lo faccio vedere, già da qualche anno esiste questo, sono più di 10 anni che esiste, ma è una cosa rivoluzionaria perché riconosce automaticamente l'antenna e a seconda della frequenza tu automaticamente lui fa tutto istantaneamente. E poi non parliamo di altre cose, di broadcasting, di cose del genere, ci sono dei marchi che non sono conosciuti ai più, però cacchio, hanno vinto delle gare negli Stati Uniti, a entrare tu nel broadcasting negli Stati Uniti dove erano leader mondiali a livello di qualità costruttiva, abbiamo dei marchi italiani che sono riusciti a passare negli Stati Uniti, hanno fatto delle prove, di lì quando fanno dei grossi broadcasting, scelgono per dire mi serve un trasmettitore di queste caratteristiche, con queste emissioni, con questi filtri, eccetera, eccetera, oppure un un encoder RDS che ti permetta di fare questo, questo e quest'altro. E cacchio, hanno vinto due marchi italiani, uno è la Suono, che ce l'ha la RAI, che fornisce la RAI e tutti i broadcasting italiani e la maggior parte di quelli europei, e più la Itelco, che è lo stesso un grande marchio glorioso italiano, che noi purtroppo deneghiamo troppo le cose italiane. Noi abbiamo i motori italiani, anche per campo automobilistico sono i migliori del mondo, ce li invidiano tutti, le migliori tecnologie motoristiche sono sempre italiane, però noi ci fissiamo con i marchi stranieri, quello e quell'altro. Il Common Rail ha inventato la Fiat, la BS l'ha inventato un italiano, noi abbiamo tante cose, purtroppo la gente si fissa ad andare a comprare roba straniera convinta di avere il meglio, non è così, perché se tu sai scegliere ci sono degli ottimi prodotti italiani. Calma, però adesso i motori, se parliamo di motori in Italia, col marchio italiano c'è la Fiat dappertutto, se c'è la Fiat dappertutto mi dispiace, non se ne esce. Se ne esce parte di Fiat, potrei dire basta, non ne posso più. Perciò i nostri vicini tedeschi, poco in là dal confine, per quanto riguarda gli automobili, sa che ci fanno di cervello, purtroppo, perché avevamo la Lancia che era speciale, avevamo l'Alfa Romeo che era mitica, io fui artista, fino a quando l'Alfa Romeo è rimasta Alfa Romeo, non è diventata Fiat, io sono rimasto praticamente con qualche Alfa Romeo a casa, ho tenuta magari da una parte, ho usato ogni tanto, quello che vuoi, però non lo so, le macchine migliori al mondo secondo me, ripeto giustamente, a livello di people, senza andare sui fuoriserie o sui fuoriclasse, perché ci sono macchine di ogni tipo, secondo me erano la Lancia Tema e la 164, le macchine migliori al mondo, che insieme c'era l'autoradio Outbox, che insieme c'era il televisore di Nifar, che la Philips aveva aperto gli stabilimenti in Italia, c'era quello di Monza che era gigantesco, e con lo schema a metà tra quello Philips e quello che inventarono a Pordenone, che non è stato della Zanussi, per intenderci, abbiamo riempito il mondo dei televisori, capito? Cioè Pordenone produceva delle cose meravigliose, però poi niente, sarà lo stato, il clima, sarà la mentalità, sarà la gente che non ha voglia di lavorare, sarà la gente che vuole arricchirsi in maniera diversa, insomma, in Italia non si produce nulla. Se poi arriva l'artiglio che invece non ha fatto con le antenne fatte in Italia, per tutto il mondo, figurati, cioè una mosca bianca, vabbè, ma non andiamo avanti, se no cambiamo mentalità. Allora, noi non facciamo grossi numeri come cose, però le cose che facciamo noi, quelli che le fanno fare, ce ne sono tanti, ci abbiamo pochi uguali nel mondo. Di motori, e lo ribadisco, non ce ne abbiamo di antagonisti nel mondo come tecnologia. Io ti faccio solo l'esempio del Common Rail, la Volkswagen è stata l'ultima casa al mondo che ha utilizzato il Common Rail, e per esempio per l'Audi l'ha utilizzato il Common Rail, che era di gran lunga superiore, meno complicato, meno pressioni di utilizzo, perché utilizzava la Volkswagen fino all'ultimo periodo, c'era il classico TDI che lavorava a 200 bar di atmosfera, mentre il Common Rail a metà della pressione, per cui meno rischi e meno pericoli. Fino alla fine, adesso tutti i motori Volkswagen sono passati al Common Rail, perché era controproducente secondo loro a livello di immagine, la Volkswagen è verso l'avanguardia, eccetera, eccetera. Sta il fatto che l'Audi è stata la prima del gruppo ad avere il Common Rail, dopodiché piano piano anche la Volkswagen se ne è accorta che quel sistema iniettore pompa era troppo sofisticato e troppo inaffidabile. Idem per il discorso delle centraline elettroniche, la Magneti Marelli ha insegnato al mondo, la Formula 1 ha riempito tutti i più grandi costruttori di coso, gli altri sono tutti venuti dopo, la Bosch eccetera eccetera, con sistemi molto più semplici, riusciva ad avere le stesse qualità e le stesse prestazioni di altre centraline molto ma molto più complicate. Ti ripeto, il Common Rail è un brevetto Fiat che l'ha ceduto a commercializzarlo alla Bosch, idem l'ABS fatto da un ingegnere italiano, purtroppo molte cose non sei in grado di produrre in grandi quantità, per cui devi cederlo a qualcuno. E ti ripeto, a livello di motori, io li conosco tutti perché da noi io li vedo tutti, motori semplici e affidabili come i motori del gruppo Fiat, a iniziare dalla Ferrari a finire al motore della 500, noi abbiamo il multijet che è stato copiato in tutto il mondo. Adesso prima c'era l'unijet, poi c'è il multijet, eccetera eccetera, sono dei brevetti Fiat che gli altri ce li hanno, sono stati copiati dagli altri, ma dai grandi produttori, perché ti ripeto, a livello di cosa, semplicità e affidabilità non ce n'è. Io ti faccio vedere i motori Fiat che camminano con, senza olio, tipo il Fire vecchio, non so se l'hai conosciuto, il 1000 Fire della 1, quello lì è stato il mio, della storia dei motori, uno dei migliori motori mai costruiti per semplicità e per robustezza. Poi ci sono tutta la serie 1009 GTD eccetera eccetera, sono motori che fanno migliaia e migliaia, centinaia e migliaia di chilometri. Io vedo dei motori Volkswagen, Mercedes, BMW un po' di meno, motori Renault, che si spaccano per problemi strutturali, problemi di costo di lubrificazione. Quando andiamo alla Smart, 60.000 km ce la butti, quando il Qashqai, problemi di lubrificazione, che si tasava un passaggio di olio di lubrificazione e si spaccavano. Motori Volkswagen non ce ne sono centinaia che ne ho, di peso di decine, non centinaia, di persone che hanno spaccato motori, cambi, eccetera, eccetera. La Fiat si è rovinata un po' l'immagine per il discorso della corrosione, che poi piano piano sta cercando di cosa. La qualità dei materiali, delle plastiche, tutte quelle cose lì, niente da dire, numero uno è sempre l'Audi, e gli altri si avvicinano un pochettino alla BMW e alla Mercedes. Però a livello di motori, è inutile che girano e girano, non ce n'è per nessuno. A livello prestazionale magari puoi trovare il motore 6 cilindri in linea della cosa, della BMW, che è ancora il top come prestazioni, perché è un tipo di concessione che ti permette di avere delle prestazioni superiori agli altri a parità di consumi, diciamo è ineguagliato da quel punto di vista. Però parliamo di robustezza meccanica, qualità, non qualità, di affidabilità, non ce n'è per nessuno. Semplicità d'uso, facilità di riparazione, non ce n'è per nessuno. Poi io sfido a chiunque quando vuole fare discussioni di cose. Poi parliamo di Ferrari, non tocchiamo quel tasto di lì, che ogni tanto ne togliamo un brevetto, ne ha decine all'anno i brevetti. Siamo Cappadale, stiamo anche parteggiando Emanuele, però facciamo partire subito Emanuele, dai, che è così, giusto per darti un dato, Roberto, se conosci il motore Fire, a parte il fatto che il motore che rompe la distribuzione e non fa danno, immaginati tu, proprio la distribuzione su un motore qualsiasi, in molti casi ti conviene direttamente schiacciare la macchina. Il mio motore Fire della 1, che ho tolto a banco con tanto di alberocconi, taglio LBL, secondo schema coni, pistoni lavorati in maniera diversa, le facce diverse, la testa tarifata tre volte dallo zero, perciò tre volte sianata, l'aspirazione scarico, con un tubo di aspiratore di quelli industriali, una bocchetta di condizionatore dietro la mascherina. Ho fatto l'airbox con dentro un filtro, mi sembra BMC, non era Sparco, o forse era Sparco, non ricordo. Le candele Spitfire, ed era una 1 bianca, 45 SL, prima serie, che faceva 90 in seconda, 140 in terza, in quarta, aspettava il filo di 40 km, tirata in quinta, passava la mia lanciatema. Ciò vuol dire che la lanciatema faceva 2,40 e piano piano la 1 se ne andava. Capito Roberto? Io lo so cosa sono i motori Fiat, sono d'accordo, però poi si cagano in cazzate e rimane in mezzo alla strada a 100.000 km, quando invece lavorando con motori Audi, soprattutto negli ultimi 20 anni, non sono mai arrivato a piedi, neanche per scherzo, ma ho visto dei motori Fiat, per esempio su Alfa Romeo, lasciare gente a piedi perché si bucava il cambiatore, perché lo cambiatore era non fatto con una paletina di plastica, cioè ne avete tutti i colori, e purtroppo non riesco più a fidarmi, e anche per questioni di robustezza, di all'urto, mi dispiace, però rimango sempre con 4 anni lì, magari me la compro usata, magari me la compro vecchia, tutto quello che vuoi, però con 4 anni sono sicuro. L'hai visto l'altro giorno con la macchina di mio padre, che è un macchinone, che è fatta bene, già lo sai, quella però secondo me con un incidente un po' pesante non si comporta bene come la mia, capito? Così. Ascolta, facciamo per le braccia di Emanuele, che se no lo stiamo facendo addormentare. Emanuele, annoiato, lo devi capire. Manuele sta annoiato, ci sei Manuele? Si è fuggito. Avanti di casa. Ciao Gava. Continuo io adesso, Fabio, aggiungo. Allora, io ho sempre detto, attualmente la migliore macchina qualitativamente costruita è l'Audi. Subito dopo dietro vengono BMW e Mercedes. Parliamo di qualità costruttiva. L'Audi è un gradino sopra gli altri. Però l'Audi ha dei difetti, grandi difetti di cambio e difetti di motore. Perché ti faccio vedere le macchine Audi A4, compresa quella di mio cugino, che adesso ce l'ha mio nipote. I motori è matematico che si spaccavano, sbiellava, si troncava in due l'albero l'albero motore, troncato in due perché era troppo sollecitato, e non è l'unico caso, te ne porto a tanti altri di casi. Tu mi dirai che l'albero motore della Fiat è brutto a vedersi, materiale ferroso, non è un acciaio di altissima qualità, però non ne ho mai visto io alberi motore spaccati in due. Quello dell'Audi è un difetto frequente sul motore 2000 TDI, te ne faccio vedere tantissimi, non parliamo dei cambi automatici, che di lì la macchina perfetta non esiste e mai esisterà, c'hanno dei problemi che più o meno ce li hanno tutti, però a livello di motore, per dire, ci sono dei cambi Fiat su quello che montano sulla Multipla, sull'ex, come si chiama, la Marea, quel cambio lì, qualche problemino, quelli di doppia frizione l'hanno avuto, infatti molti stanno ritornando indietro al sistema col volano non bimassa, il volano bimassa, hanno ritornato indietro col volano semplice all'antica, perché hanno avuto dei grossi problemi di cambio, però a livello di motore ti posso dire raramente, a meno che non ci siano problemi costruttivi dall'inizio, magari qualche difetto di costruzione, però a livello di durata sono molto molto longevi come cosa. I BMW hanno un po' più rispetto all'Audi, il top adesso dei motori prestazionali, rapporto tra prestazioni e consumi, il top è la BMW, però la BMW c'ha quel gradino in più perché c'ha i 6 cilindri in linea, diciamo un sistema, una concezione costruttiva diciamo che già di per sé ti dà dei vantaggi rispetto a tutti gli altri tipi di coso, di motori a V, a boxer, eccetera eccetera, però ti posso garantire che i motori nostri italiani, a meno che non hanno qualche difetto di fabbrica che può capitare a chiunque, vanno più che bene. Poi ci sono altri problemi elettronici, di sospensioni, eccetera eccetera, però da un punto di vista di robustezza e semplicità di riparazione ti posso garantire la Fiat sono all'avanguardia. Poi c'è il nuovo motore Alfa Romeo, non ne parliamo, la nuova Giulia, quei motori lì hanno schicchiato di forte a qualunque tedesca, hanno giocato sul fatto di combattere la BMW e l'hanno anche battuta in Germania, hanno fatto prove comparative le migliori riviste, quella nuova Giulia, quella GTA quadrifoglio verde, che adesso c'è la nuova evoluzione, quella lì ha stracciato tutti, solo la BMW li sta un po' vicino. Scusate una cosa. Adelante, Mucciacci. Lo so che disturbo il questo, che vi state divertendo con questo discorso, ma vi devo dire cosa ho mangiato, che sennò poi me ne dimentico. Giusto, dimmi tutto. Bene, bene, dai, iniziamo. Sono arrivato dentro casa, mi trovai una cotoletta fritta sul piatto, con un po' di insalata, e un uovo, e poi un altro bel panino. Cacchio, leggero, quindi poi ti avevi mangiato un panino prima. Ho mangiato due panini. Ascolti, ma l'uovo com'era? L'uovo era sodo. Ok, allora, ricapitolando. Vediamo un pochino il bilancio energetico di questa faccenda. Prima schianatina con peretta originale, non dico il nome perché lo sappiamo, ormai universale, e un po' di speck. Dopodiché cotoletta fritta con un accenno di salatina, un uovo solo. 24, allora, diviso 2, moltiplicato. Quanto viene, Robert? Sono 13.475,6 periodo di calorie. Però ci manca il dolce, ricordi la cassata, che cosa ti preso? No, dolce no, sono scappato subito per venire qui. Cassata se mi ha un po' stufato, sto aspettando perché mia sorella mangia. Mi piace molto il gelato al tiramisù, lei lo mangia di mattina a merenda, di pomeriggio, di sera e di notte. Quindi quando vado ad aprire il frigo, che abbiamo comprato una riserva per tutti i militari della Sardegna di tiramisù, è quasi finita perché se l'è mangiata lei. Addirittura. Da qui è arrivato il carattere glaciale di tua sorella. Sai che siamo riusciti a farla parlare nell'altro giorno in radio, ha salutato Francesca, così si chiama Riccardo. Sì, Francesca. Poi aspetta un paio di anni e te ne ritira tutta l'attrezzatura e si mette lei a parlare e devi chiedere permesso per entrare. Cosa, Roberto? Aspetta qualche anno che te ne toglie, come si dice a Sassa, se ne toglie coso da, come si dice, di maccheroni a gabbo. Nel senso che te ne prende via la stazione e diventa sua proprietà, dovrai chiedergli permesso per parlare. Ma se vuole modulare, che moduli in garage, io me ne sto al calduccio dentro casa, adesso piazzo l'antenna e ci vediamo dentro casa. Guarda che si mette in lineare, ti coso, e ti schiaccia, ti sovramodula, ti brucia il coso, ricevuto. Certo, subito. Già me l'immagino io, quella è furba, è furba. Poi è una brava ragazza, dai, è una brava ragazza, ricordi? Molto, l'hai conosciuta. Dico, tu da fratello cosa mi dici? È una brava ragazza, è tranquilla, sì. È una brava ragazza, un po' fuori di testa. Questa è la registrare, non vuoi? Questo è amore e odio, come si dice, qual era quel film? La guerra dei rossi, se ve lo ricordate quel film, l'hai visto? Ma io l'ho visto, ricapito tu forse no. Ma dai così quel film? Se ne facevano tra loro, allucinati. Sì, no, alla fine, cacchio, l'ultimo colpo di vita, cacchio, si sono pure picchiati poco prima di morire. No, dai, mi sembrano salvi, mi sembrano salvi. Anche se lì c'è quello sguardino, la furbina, mi sa che, senti, me l'ha detto, da guardare così, no, questa è furba, altro che aspettare a 15 anni, questo c'è già problemi l'anno prossimo. Ma non ci viene la notte quando stai tu, Riccardo? No, la notte va a farci il make-up, sta davanti allo specchio, sta su TikTok, se... No, la notte no, quando vuole, per rompermi le scatole di pomeriggio. Ah, così è. Ha fatto ridere questa parola make-up. Comunque, no, lo sai che la scrivania che mi hai dato mi ha ricattato, mi ha detto che... mi ha detto, non ti lascio più lo spazio per la postazione se non mi porti la scrivania di Roberto dentro casa. Quindi ti ha fregato la scrivania, ma piano piano si inizia, Guglia, adesso già ti ha preso la scrivania, poi ti porta via l'apparato, poi il rosmetro, poi il microfono, alla fine ti ritrovi con un pugno di mosche. Vai a parlare, che dove sono gli apparati? E ce l'ha in camera la tua sorellina. Purtroppo siamo in camera assieme, quindi non mi sfugge niente. Io faccio il conto ogni fine serata su tutti gli apparati. Ah, quindi siete nella stessa stanza a dormire? Purtroppo sì, dormiamo nella stessa stanza. Quasi quasi mi voglio fare una stanza per me, così almeno posso stare tranquillo che non disturba, perché quando disturba sembrava volare. Prima stava cantando mentre stavo parlando. Vabbè, dai, ti fa compagnia almeno. Ok, Fabio, guardate il mic. Come? No, ho detto vai a te il mic. Ah, l'ho capito, vai in macchina. Cosa? A proposito, è l'antenna, quando è che la piazza? Adesso mi è venuto in mente. Guarda, oggi la congestione astrale appariva a Benevola. Purtroppamente, come dice quel comico famoso, si è messo un cielo uggioso, come una giornata uggiosa, come ha detto quel cantante famoso. Insomma, tra il comico e il cantante è uscito che non è la giornata, poi si mette anche a pioviginare, ciao. Quando c'è la voglia poi succedono eventi esterni, a modificare le cose, gli eventi. Giova che metterò quell'antenna, sarà veramente un giorno epico, Devo costruire questo sistemino per riuscire a portare giù quel palo. Una volta che porto giù quello, con calma, posso andare, posso passare la mattinata, piano piano, me la metto tutta, me la monto tutta, capito? So che il problema che mi ferma è quel palo lì, bisogna essere in due per forza. Ma io sinceramente, anche provvisorio, considerando che d'estate magari c'è qualche collegamento, se ti interessa a farli, me l'avrei messo un altro palo, così poi quando sarà l'altro me l'avrei sceso. No, vabbè, secondo mio, non ne metto staffe contro staffe, capito? No, ci ho anche pensato, cosa me ne frega, la metto di qua e ciao. Però c'è già quel supporto lì, quel supporto ho fatto tanti anni fa e quello sì che ha fatto bene, proprio con state differenziate. fase di altezza di bordo, con piantone, con struttura laterale anche per reggere di più, utilizzerò quello, se no diciamo, bucare qua, bucare lì, bucare qua, magari poi cose brutte, coperti tirati non va bene, altri occhielli, insomma, il tetto non è mio, il tetto è del palazzo, io prendo il mio spazzettino, ci metto tutto lì, compreso le scatole di derivazione, con guaina che va nel doviale, eccetera, tutto bello ordinato, porto anche un po' di antennine fatte a filo lì in mezzo, ci devo mettere pure questo bazooka che ho fatto, per la ricezione, così no? Una volta che faccio questo, finito, sul tetto praticamente non ci salgo più. Ah, dimmi una cosa, quanto metro, non mi ricordo, il palo quanto è alto? Allora, c'è un palo che dovrebbe essere alto sui 3 metri e qualcosa, però è accessibile, nel senso che riesci comunque ad arrivarci anche in punta al palo. E poi c'è un altro palo da 4 metri che è praticamente appoggiato, cioè mezzo innestato cadente con un morsetto di ponteggio che prende un pezzettino di un palo, un pezzettino dell'altro, essendo pari diametro, si può immaginare, è coricato da una parte, è pronto a cadere, e per questo pensavo di prendere un altro palo, mettergli una sorta di supporto laterale per riuscire a reggerlo mentre lo svitto, capito? Ma una cosa, non hai pensato tu, prima di tutto imbragarlo e poi tagliarlo in due con una moletta e tagliarlo? Oh Roberto! Mentre lo tagli, invece dell'altro pezzo, è un pezzo di cane, perché in senso di città, da spingere eccetera. Poi sì, imbragato sì, quello va comunque imbragato. Il discorso è che quando tu lo imbraghi, dove cade? Sulla tua antenna, ti cade in testa, anche se ti cade, se dovesse cadere sul tetto, mucca di impermeabilizzazione fa danno, capito? Allora ci vorrebbe uno che ha in mano un palo con una forchetta per tenerlo un attimo fermo, l'altro lo svitta mentre ha mollato la parte attaccata al palo, quello che stava svitando lo prende in mano e l'altro pian piano lo appoggia per terra. Finito, è un'operazione da 3 minuti, però bisogna essere in due, bisogna essere legati, bisogna che non piova. Fabio, se hai bisogno ti diamo una mano, e intanto non sai che cosa faccio mentre passo il tempo, mi sa che mi metto a saldare un PL perché mi piace molto, con la pasta salda adesso mi metto, faccio scaldare il saldatore. Con la pasta salda addirittura? Sì, sono professionale con la pasta salda, secondo te sono buccia di yoga. Anche la moto l'ho usato la pasta salda. Comunque Roberto, sai chi è venuto a trovarmi qui in stazione? E chi è venuto? Il gatto. E chi è il gatto? Il mio gatto, tu pensavo che stavi per dire mia sorella, no, invece è venuto il gatto. Stavo pensando a Occhi di Gatto, a Fabrizio Occhi di Gatto, adesso è venuto a lei. Oh, Fabrizio non sta pensando a me, stava pensando prima che portasse la radio. Ah, è venuto a trovarmi il gatto, stavo pensando a Fabrizio perché è nominativo qua in CB di Fabrizio e Occhi di Gatto. Aspetta, Fabrizio, questo? No, Fabrizio, no. Comunque, sì, adesso uso la pasta salda perché sono professionale, ho un bellissimo rotolo di stagno e mi metto a saldare. Perché? Non posso essere direttamente lo stagno? Ma qua dobbiamo essere professional. Io sono tanti secoli, non ne uso più. Tu che usi pasta salda, Fabrizio? Mi Fabrizio, scusa, Fabrizio. Cappa che la uso ma l'ho saputo usare, poi soprattutto l'ho saputo pulire, perché vabbè lì è più comodo, perché comunque sia, ricordati di grattare la punta, si grattava bene, con un po' di carta vetrata, la punta la voleva attaccare allo stagno, ci deve entrare raschiato con la punta delle forbici, qualcosa del genere, la fa attaccare bene, insomma, lo stagno. La sì che la uso anche i pulsanti. Ma per fare che cosa? Saldatura e greve, diciamo cose grosse, dove devi usare, come c'è, la temperatura è alta? No, io lo uso per tagliare lo stagno, quando lo stagno è morto, perché è molto vecchio, allora magari un goccino di pasta salda, oppure la uso con l'aria calda, perché con la pasta salda riesci a uniformare meglio la temperatura, perciò un soffio d'aria calda riesce a toccare, brillare prima, no? Perché poi quando si scalda la pelle diventa brillante, riesce a far brillare prima i componenti delle parti in cui non c'è, degli altri componenti che non sono toccati dalla pasta salda. Ecco, il flussante è praticamente una pasta salda liquida, tu lo metti, fai salire la temperatura, giochi un attimino di pistola, ti rendi conto che è il momento giusto per alzare il componente. usato le flussate, pure quelli no clean, e che vanno per forza pulite, se no in caso di tutto poi alla fine ci butti tutto. Avanti il break. Ciao Claudio, ben sentito, anche se dico ben sentito, però la voce, la modulazione non è che mi piace molto. Hai cambiato sicuramente apparato rispetto all'altro giorno, ti rilancio a Fabio e poi passerà a Riccardina. Avanti Fabio. Cappacchiodo, ben sentito. Sì, sono d'accordo con Roberto. Chiodo già lo sai con il barattino che mi piace. Mi piacerebbe averlo quell'apparecchio, ma mi piace molto anche sentirlo se ce l'hai tu. Proprio ci deve essere quell'apparecchio frequente, mettilo in frequenza, fallo girare. Riccardino, quindi saluto. Eia, vado avanti io, saluto anche da Ruggito, ben sentito, e sicuramente sto usando il 48 della modulazione, lo riconosco subito, ormai ho fatto l'orecchio. Avete parlato in due. Avanti di nuovo, Riccardino, ripeti quello che hai detto, ho sentito che l'hai riconosciuto, che era il 48, anche io credo che sia quello. Avanti Riccardino, che poi riprenderà Claudio. Sì, ho detto che dalla modulazione l'ho riconosciuto subito, il 48 che stavo usando, perché quando usa l'altro me ne accorgo subito che la modulazione è più bella. E ormai ho fatto l'orecchio, dico che ho sentito che è un 48. Allora, per capire come stai uscendo, è come che tu stai parlando in un'altra stanza, cioè il microfono in un'altra stanza, per dire, c'hai il microfono in cucina e stai parlando in camera da letto. Mancano completamente gli acuti, c'è una modulazione chiusa, abbastanza chiara, però è poco, non è bella, dai, c'è modo di uscire molto meglio. Prova l'altro che vai alla grande. Molto rimbombante e anche fastidiosa per certi versi. Ok, io sono di quelli che quando trovi la giusta abbinamento non si tocca niente. Come si dice, Riccardo? No! Mettiamo lo slogan! No tocca se! Hai visto? Anche tu l'hai capito, che tu c'avevi le dita a cacchio telecomandate, ogni giorno toccavi, facevi, piano piano ti sei abituato. Guarda, io e Fabio, sempre uguali, non modifichiamo niente. Fabio da quando è entrato, sempre con la radio lì, al limite ha alzato un pochettino, se no sempre uguali. Cosa cavolo vi mettete a toccare, che vizio maledetto? Mica vi pesto la mano. Te ne taglio le dita a te, che ti faccio parlare con le dita dei piedi, col telecomando a pedale. Io non sto toccando niente ormai, non sto toccando nuda, come si dice in serra, nuda. Sì, piace Riccardo, sei un personale troppo togo. Piano piano ti è passata la timidezza, adesso fa le vocine, proprio tu dovresti andare in una radio a fare un programma radiofonico, io sono sicuro che avresti una marea di ascoltatori, per come cambi anche il tipo, tonalità di voce, grossa, piccola, i personaggi, cambi anche il modo di parlare, bello, complimenti. Vai Fabio. Cappa, sì, è vero, l'eclettico Riccardino, proprio vero. Ma tu giungi in questo momento, su questo argomento, proprio un attimo prima che io volessi annunciare una cosa, meglio dire un mio pensiero, pensavo addirittura appunto di provare, che so, magari domani metto a collegare, vediamo un pochino, per vedere un pochino come riesco a uscire con questo microfono, ma con il baracchino giocattolo omologato Lafayette. Hai presente? Ma dice a me o a Riccardo? No, dicevo a te. Tu dici, vedi, non tocchiamo nulla, non tocchiamo nulla. Vedi Fabio, sempre uguale. Io stavo per dire, domani vogliamo mettere quell'altro apparato. Ah, riferito all'appunto che avevo messo prima. No, ma diciamo, se è un apparecchio va bene. Io gli ho detto, facci un segno col pennarello, quello che ti piace, questa Riccardino. Scriviti sopra ogni apparato, volume microfono 5, tonalità, sì, e ci metti un pezzo di quel nastro in carta di carrozzeria e non lo tocchi. Se poi il microfono provi sull'altro apparato, lo regoli e non lo tocchi. No, ogni giorno, guarda che stai uscendo male, guarda che puoi uscire meglio, ti ho ascoltato meglio ieri. Basta, fate in modo di uscire perfetti e così si evitano tutte le discussioni. Perché dico, se hai trovato il giusto abbinamento, il coso, lascia stare. È giusto anche fare delle prove, ma migliorative, non peggiorative. E questo sei tu, cazzo, così ti vogliamo pieno pieno di qualità e di modulazione, pulita, senza interferenze. Amen. anche l'aparato, se tu gli metti un microfono, la GLB riesce benissimo, però con quel microfono non mi piace, sinceramente non mi piace, saranno gusti miei particolari, però ti dico, è un po' cupa, molto rimbombante, non mi piace. Vabbè, il modulatore è tutto un altro mondo. Allora, tu fai un esempio, quando tu stai parlando con una persona e ce l'hai di fronte, questa è la modulazione che sei tu adesso, in questo momento. L'altra modulazione è quando tu stai parlando con tuo padre, lui è in cucina, per dire, dall'altra stanza, le pareti ti attirano completamente le frequenze acute e medio alte, per cui c'è una modulazione chiusa, molto ristretta come larghezza di estensione, diciamo, estensione di modulazione, è come che stai parlando con la mano tappata davanti alla bocca, è più chiusa un'altra stanza rimbombante, tra l'altro è per quello che perdi tanto. Così forte adesso sto parlando con la mano davanti al microfono, come sta andando? Sembra di 5-6 anni più grande. Non guardi che sei stata un'ambulanza, ma perfetto. Chi è questo, Luca? Questo è Emanuele Ginco. Che cosa ha detto? Non ho capito. Aggiornite, come ti chiedi, presta una tambullana, salvato. Ah, ha detto bene, ha detto una tambullana, ha detto il sassarello. Comunque, riascolta, ma questa trepunta adesso. Ma risentita tutti quanti, saluta anche a Cosa, a Chiodo Fisso, detto Claudio, avanti, vabbè. Oh, Chiodo Fisso, questa non l'avevo sentito, perché mi hanno dato tanti nomi, Chiodo Rugginoso, Chiodo Fisso, questo non l'avevo sentito, comunque Chiodo Arrugginito si chiama, anche se a me non piace, preferisco chiamarlo Claudio, è più amichevole, dai, io tutti li chiamo per nome, se possibile, a meno che non ci siano doppioni, a quel punto li devi identificare. Come a te chiamo Manuele, Ginco è il tuo nominativo, però mi viene più spontaneo chiamarti Manuele, tra l'altro non ce ne sono neanche più, ce n'era uno tanti anni fa che si chiamava Manuele, ma ormai non ce ne sono più, come Riccardo, Fabio, non ce ne sono più, li chiamiamo per nome. Perché c'era qualcuno che si chiamava con il mio nome? Chi si è azzardato? Riccardo Cuor di Leopardo c'era, però non era CB quello lì, quello era un altro, un nobile. Oh, io parlo della CB Zemberg. No, non c'è. Scusate signorto, a memoria mia io non ne ho mai sentito. Avanti di nuovo Claudio con la tua microfonia. Ciao Claudio, ben sentito ancora. Comunque in queste mie coordinate arrivi perfetto, dai. Una radio di 4, un Santiago di 5, sì, oscillante. Arrivi abbastanza bene comunque. Vai. E c'era Fabio, vai Fabio. Ciao Emanuele, ben sentito tra l'altro. Chiodo, cosa posso dirti? Spara chiudi. Quando hai questo apparecchio non ce n'è per nessuno. Se tu fossi da queste parti, cioè saresti praticamente l'FM stereo della frequenza, capito? Ah, poi se c'hai modo di ascoltarti, vai, ti metti un baracchino vicino senza antenna e ti rendi conto la differenza tra uno e l'altro, è enorme, cioè come tu stai parlando o ascoltando un megafono, uno che parla con un megafono e uno che parla vicino con la voce naturale, la differenza è così, per capirci la qualità di emissione che hai con quella da 48, sicuramente se tu gli abbini un altro microfono uscirai alla grande anche con quello, però con quel microfono sinceramente non mi piace. Ascolta un attimo. Ok, non è questione di essere baracchino un po' di più o un po' di meno, è questione di quell'apparecchio Sommercamper fatto in maniera completamente diversa. Hanno tirato gli stati in maniera diversa, hanno accoppiato gli stati in maniera diversa, ha dei filtraggi interessanti, cioè, è come dire, sì, la macchina è sempre Volkswagen, ma una cosa è l'Apollo, per dire, è un'altra cosa la Passat, capito? È sempre un baracchino stiamo parlando, però la qualità e lo studio di alcune cose, cioè, sono completamente diverse. Infatti la radio di questo apparecchio, io penso che sia una delle mie radio preferite a livello di pulizia in frequenza. Roberto, non so se ho salutato a Claudio e anche a Emanuele, comunque li risaluto e sono pronto per la saldatura, adesso lo scaldo, ho tagliato il cavo e ho messo già il PL pronto. Ragazzi, sono questo PL? Il cavo per l'antenna. Dimmi, ma quello dell'antenna nuova stai parlando? Sì, per l'antenna nuova. E ho messo di quei PL, non quelli in Teflon che non valgono una massa, quelli buoni. Quelli in bacchellite, dell'anfeno, quello che mi hai fatto vedere a me. Dopo che l'hai, come si chiama, infilato bene, mi raccomando, la saldatura falla ben calda e lo stagno per lo cadere bene dentro, in modo che sia... E poi l'ultimo pezzettino, se c'è del nastro isolante dove chiudi la parte finale del PL, mettici una bella... tirato bene nel nastro isolante, in modo così lo proteggi un pochettino, meglio di niente. Claudio, una considerazione, se ti piace così tanto l'ARA 48 e trovi uno capace, ti tieni l'ARA 48, lo svuoti e ci metti il sommer campo dentro. Guarda, io ti dico una cosa, l'ARA 48 a me me l'avevano regalato il primo baracchino, a parte l'Handy come quello portatile, quando ho iniziato, dopo qualche settimana mi hanno regalato l'ARA 48, c'aveva una settimana di vita, l'ho usato una volta soltanto perché per il nostro sono raccontato, questa era una rappresentante, viaggiava sempre per tutta la Sardegna, hanno detto prenditi il baracchino così i camionisti su canale 5 ti avvisano se c'è posto di blocco eccetera eccetera, questo era uno che camminava in macchina, ha di fatto mi hanno ritirato la patente per non sbagliare, che non l'hanno avvisato, e me l'ha regalato, c'ho la scarpa originale, tutto qua, è un baracchino molto robusto, nel senso costruttivo, nel senso come materiali, ferro, i tastini sono belli, i commutatori belli, diciamo robusti, però esteticamente a me proprio, forse abbiamo gusti diversi, proprio non piace, molto macchinoso con quel cambio canale, duro da muoversi, magari sarà robusto, però non mi piace, proprio un baracchino che esteticamente è, mentre il 8001 l'evoluzione di questo, quello è carino, è un bel baracchino, però a me l'ARA 48 proprio non mi è mai piaciuto, anche se c'ha un nome che è una garanzia, nel senso ne hanno riempito tutto il mondo, su questo baracchino ci sono un sacco di modifiche, di illuminazioni, di cose eccetera eccetera, però ti posso dire a me non piace. Allora, se aspetti un minuto, io adesso ti faccio sentire il mio ARA 48 e poi mi date commenti. Un minutino, continua tu farlo. Capo ragazzi, io vi sai che annuncio il mio correttino. E allora saluto, facciamo il giro da dietro, saluto Emanuele, saluto Riccardino, saluto Chiara Ruginito e anche per Roberto. Vado, cambio QTH eccetera. E domani si galoppa da presto. Buonanotte a tutti, buono 144 e per quando lo fareste e ci andiamo domani. Aspetta, abbiamo un secondino. Aspetta, prendo Fabio, ci sei ancora? Fabio mi dispiace che te ne stai andando, mi fa piacere fare un bel questo con te e con gli altri amici del canale 10, te ne stai andando purtroppo come ho detto. E va bene, buon 144 anche a te quando lo fai e ci sentiamo domani penso. E Robè, attacca il mio apparecchio. Aspettate un attimino che volevo far sentire a Fabio, se aspetti un minutino ti faccio sentire l'ARA 48 mio. Anche io chiudo adesso perché sono un po' stanchino, aspettate un attimo. Rimango in attesa di modulazione. E ragazzi, vuoi parlare nel frattempo? Di capito, via va. Oh, come mi ascoltate? Mazza, è proprio diverso. Io lo trovo anche fedele, però la fedeltà non è quella. No, è solo per farvi capire, questo è l'ARA 48 normale, omologato con un microfono M93. Così inizia a saldare, che sta già scaldando. Vabbè, hai presente, questo non so, se così sono più vicino, così sono più lontano, cosa cambia? Questo è un ARA 48 normale, naturale, senza nessuna modifica. E loro dicono 4-5 watt, così se ci arriva sono 4 watt effettivi. Non lo so, dillo a loro, io non lo so. No, Fioro, anche più cupo. A me dimmi più cupo. Già Roberto non è brillante. tu sei ancora meno brillante, cioè le frequenze basse della tua voce ci sono, le frequenze medie e gli acuti praticamente spariscono, capito? Io riprendo per andare via. Beh, Riccardo, mi dispiace, ma domani se riesco te lo farò. Vabbè, a quel punto puoi venire tu, lo prendi in officina, lì mentre sali a casa lo proviamo qua a casa. Adesso ci vuole un po' di tempo per fare dei collegamenti, attaccare l'altro alimentatore. Preferisco fare le cose in fretta, non mi piacciono. Interrompo anche io, vado a Nanna. Saluto di nuovo a Fabio, grazie per il controllo, ma lo sapevo che non era un granché con quel microfono. Ciao Riccardino, ciao Claudio, ciao Emanuele, eventuali amici qua in ascolto su canale 10. QRT da parte mia, ciao ciao. Scusate, ciao a tutti, vi saluto che sto facendo una saldatura, ho le mani impegnate. Buon 144 a tutti, non ho tempo di salutare uno per uno e ci sentiamo domani. Ciao a tutta la ruota. Ciao ragazzi, buonanotte.